ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. I padri eterni, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. Eccoci qua come ogni domenica per parlare ai padri, per parlare di padre. Insomma, cerchiamo di raccontare un po' l'attualità con gli occhi della paternità. Tante storie, tante testimonianze, tante dritte un po', no, per migliorarci in quanto padri imperfetti. Mi piace questa definizione di padri imperfetti, perché insomma io mi ci riconosco in pieno. Tu, nonostante insomma tu ci provi, no, a sembrare questo padre perfetto a suon di peperonate, ma anche tu ogni tanto sono il perfetto padre imperfetto. Allora, insomma, sono giorni strani. Ieri, guarda, ho sentito un adolescente che mi ha proprio aperto un mondo. La sua frase è stata: se a settembre mi fanno mettere la mascherina, io a scuola non ci vado. Sono proiettati tutti lì. Ma tutti proiettati verso il futuro, anche perché non si sa bene, no, cosa succede. Guarda, io però, Fede, posso dirti che per ora sono solo proiettato verso le vacanze. Ok. Ho cominciato questa settimana finalmente a preparare le valigie per il mare, anche se partiremo fra quasi un mese, perché non ne posso più di sentirmi dire: papà, ma quando partiamo? Papà, ma quanto manca ad agosto? E quindi, sai, fare i bagagli è già una maniera morbida per avvicinarsi a quel periodo lì. Strategie. Radio24.it è il nostro sito, da lì potrete poi scaricare e riascoltare il podcast. Padri Eterni @radio24.it se volete contattarci, oppure tutto ciò lo potete fare anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Facebook, I Padri Eterni di Radio 24. E visto che stiamo parlando di vacanze, andiamo in vacanze, lo facciamo camminando. Andiamo a camminare, lo facciamo con una bellissima esperienza che sta vivendo una famiglia. No, io insomma mi sono autolodato, no, nelle puntate scorse, perché ho fatto questo trekking con mio figlio di 5 giorni e già mi sembrava... Tu appartieni ai padri camminatori, Fede. Sì, ok, però adesso c'è un padre qui in collegamento con noi, insomma farà 10 volte di più del percorso che ho fatto io. Lui si chiama Sergio Damiani, un collega dell'Adige insieme alla moglie, e ha ben 3 figli piccolissimi, no, beh, insomma, c'è una dodicenne, Silvia che ha 10 anni e un piccolo Luciano che ha solo 4 anni. Hanno scelto, deciso di fare l'intera via Francigena, sono quasi 50 giorni di cammino, un migliaio di chilometri, con un grido che si portano nel cuore e non solo, che è: Italia, ti amo. Ciao Sergio, buona domenica e benvenuto ai Padri Eterni. Buona domenica a tutti. Ciao. Era molto contento di questa intervista, perché ha detto che così si sarebbe fermata e avrebbe tirato un po' il fiato, vero Sergio? Assolutamente, perché sono col fiatone, anzi se mi sentite non preoccupatevi, non sto schiattando. Come mai, Sergio, questa scelta di mettersi in strada, padre, madre e figli? Diciamo che la Francigena l'abbiamo maturata quest'inverno, durante il periodo del lockdown in cui eravamo tutti chiusi in casa, e noi abbiamo detto: quest'anno facciamo un grande viaggio in Italia, andiamo alla ricerca del nostro paese, delle nostre radici. E così è stato. Appena si è potuto siamo partiti il 29 di giugno dal passo del Gran San Bernardo, abbiamo attraversato un bel pezzo di tanto, ma insomma abbiamo ancora da fare molta strada. Sergio, innanzitutto tanta stima, anche perché insomma la vostra è un'esperienza bella, affascinante, ma anche un'esperienza impegnativa. Ti chiedo, tu hai figli forse ancora un po' piccoli, no, per apprezzare del tutto questa possibilità, almeno credo, ma ti chiedo, camminare insieme può essere un modo anche per accorciare le distanze generazionali, no, la possibilità di questo spazio e soprattutto questo tempo solo vostro? Sicuramente, diciamo che anche noi siamo diventati bambini, siamo tornati un po' bambini. Ieri per esempio ci si accontenta di tante piccole cose. Ieri abbiamo attraversato un campo di verdura e c'erano questi enormi getti di acqua fredda che dati per alimentare le piante, e lì ci siamo messi tutti insieme a prendere l'acqua, questa grande pistola d'acqua, quelle che si vedono nella grande pianura padana. Diventiamo tutti un po' più piccoli e le distanze si accorciano sicuramente. Sergio, e cambia il tuo modo di essere padre quando sei in strada? Nel senso che, intanto, dove stai tu? Sei quello che apre la fila, la chiude? Com'è la formazione? Io sono quello che la chiude, diciamo, sono la scopa, sì, che recupera i pezzi della famiglia che rimangono indietro. E devo dire che l'elemento trainante, non so se si può dire in una trasmissione sui padri, ma sono le donne. Sì, okay. Mia moglie e le due ragazze più grandi, e io e Luciano, il piccolo Luciano, ci trasciniamo più spesso che non loro. Loro sono l'elemento trainante, quelle che non hanno mai pensato mollo tutto e torno a casa. Io invece ogni tanto devo confessarlo, qualche volta ho visto ieri la freccia rossa che passava, ho detto potrei salire a essere a Roma per l'aperitivo e ci arriverò tra un mese. Sergio, senti, che cosa ti piacerebbe riuscire a portare di questa avventura anche nella vita familiare di tutti i giorni, no? O nel rapporto quotidiano con i tuoi figli quando tutto sarà finito? Ma credo la solidarietà dell'uno nei confronti dell'altro. Si sono in parte cancellati in questo viaggio i ruoli di papà, di mamma, di figlio, e siamo diventati veramente una famiglia molto unita, perché nel momento della difficoltà che ho avuto anch'io, perché ho spesso momenti di bassa pressione, e quando c'è il sole, quando ci sono 40 gradi, quando c'è poca acqua eccetera, magari mia figlia veniva a darmi un colpo sulla spalla, a darmi un bicchiere, la borraccia, insomma sono bei momenti per una famiglia. Grazie davvero, ricordiamo Italia ti amo, questo è lo slogan che vi accompagna su tutti i social, è possibile seguirvi appunto per camminare insieme a voi, se qualcuno volesse può proprio fisicamente fare qualche tappa in compagnia, insomma siete aperti, vero, all'ingresso di altri familiari per uno o due giorni. Grazie davvero, buon cammino, ciao! Grazie a tutti, grazie a tutti. Ciao Sergio, ciao! Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Ancora post lockdown, perché insomma in quanto padre, in quanto genitori, credo sia nostra responsabilità, no? Affrontare, continuare a ragionare su quello che è stato, su quello che è, soprattutto su quelle che sono le conseguenze di una parentesi della vita dei nostri figli e anche della nostra, che ha lasciato dei segni, e segni anche complicati, segni che vanno comunque elaborati e che vanno affrontati. E per farlo abbiamo trovato una riflessione molto interessante tramite un articolo dall'agenzia Dire, in cui si parla appunto di cosa sono diventati soprattutto gli adolescenti oggi, dopo aver visto il comportamento di noi genitori durante il lockdown e quello che può succedere domani, quel domani che stiamo aspettando, appunto la riapertura delle scuole. Ragionamento fatto da Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo dell'età evolutiva, direttore dell'Istituto di Ortofonologia di Roma. Qui diamo il benvenuto, buona domenica direttore. Grazie, buona domenica a voi. Allora, lei ha messo in rapporto i litigi tra i genitori e i silenzi degli adolescenti. In cosa consiste questo rapporto? Guardi, il senso è questo, che già i ragazzi non parlano mai con i genitori di ciò che accade loro, e purtroppo ne abbiamo tante prove, c'è comportamenti a rischio stupidi e a volte non disgrazie. E che cosa accade? Con questa convivenza forzata i ragazzi hanno assistito intanto a tantissimi litigi familiari, diciamo determinati dal non essere abituati a stare insieme, ma anche loro hanno, diciamo così, esaurito tante beghe familiari, perché si sono scontrati tutti e in continuazione. Il problema è che al termine di questi scontri non c'è stato una soluzione, ma bensì c'è stato un silenzio, cioè una frattura. Questa frattura, da un lato, apporta, abbiamo dei ragazzi che hanno, diciamo così, non hanno adulti referenti per poter affrontare le loro difficoltà, quindi questi unici adulti referenti saranno i docenti delle scuole, e che diventa però per loro un altro peso. Un altro problema che abbiamo, che è fortissimo, lo vedremo meglio, ma lo possiamo vedere anche adesso, che abbiamo il ritiro sociale, cioè questi ragazzi tendono a non uscire di casa per via della paura, da un lato, ma e quindi quello che poteva essere, diciamo, l'onnipotenza giovanile, a me non succede, io vado e faccio quello che voglio, non è vero, questi ragazzi non escono e stanno più davanti al computer, stanno più davanti a situazioni proprio veramente, guardate i famosi chicomori, cioè i ragazzi che per lo meno 6 mesi non uscivano di casa. In Italia li hanno contati loro, cioè io lo riporto un dato, sono 120.000, ma adesso con il ritiro sociale i ragazzi che non vogliono uscire sono molti, ma molti di più. Io vorrei solo dire una cosa: si scrive sempre di queste movite dei ragazzi e tutti ci lamentiamo l'assembramento, ma non calcoliamo mai che su 3.000 ragazzi che vediamo per strada, altri 300.000 stanno chiusi in casa. Ecco, Bianchi, ma mi scusi, ma infatti la sensazione è che siamo un po' tutti in preda di una specie di shock post-traumatico, no? C'è un rimosso di cui non siamo ancora pronti per parlare, prima tutti dentro, adesso tutti fuori. E questo lockdown, in un certo senso, come lei dice, ci ha rubato anche le parole fra genitori e figli. Come possiamo fare noi padri per ritrovare queste parole, per restituirle al dialogo fra noi e i nostri figli? Guardi, io le dico quello che io, diciamo, è un consiglio che do sempre a tutti i genitori di bambini o di ragazzi che vedo. Io credo che la più stupida verità, ma che è anche così imponente, che i padri non conoscono i figli e i figli non conoscono i padri. Quindi io quello che chiedo loro è che una volta a settimana padre e figlio escano di casa, anche se sono grandi si faranno la pizza il venerdì sera, se sono piccoli vanno al giardino a passeggiare, ma devono parlare fra di loro da soli, senza però i motivi della scuola o dei doveri. Loro non si conoscono, ma questo lo dico non in modo, diciamo, è una realtà. E gli adulti, cioè i genitori, devono capire che se riescono ad avere un filo, cioè questa visione, questo incontro privato settimanale, significa che i ragazzi poi nel tempo si fideranno del loro padre, dico maschio con maschio e mamma con femmina, si fideranno, e di fronte alle situazioni della vita molto brutte che accadono sempre anche nelle scuole, avranno una persona adulta a cui appoggiarsi e a dire: papà, mi hanno proposto della droga, mi vogliono andare a ubriacarsi, insomma di cose ce ne stanno tante, e che quindi il padre non solo è informato ma lo può aiutare. Insomma, questo è un consiglio utile, non sempre facile da mettere in pratica, però sta poi a noi padri fare le strategie giuste per aprire questi canali di dialogo, di incontro e di confronto con i nostri figli. Sì, ma quello che va detto al figlio: noi non ci conosciamo, ci dobbiamo conoscere, punto. E noi usciremo tutte le settimane è proprio un appuntamento forte, inamovibile. Bello, bello, mi piace. ringraziamo il direttore dell'Istituto di Ortofonologia di Roma, Federico Bianchi di Castelbianco, ortofonologia.it è il sito per tutte le informazioni. Grazie per essere stato con noi, buona domenica. C'è tanto. Prendersi almeno un'ora alla settimana per parlare col proprio figlio, no? Mettersi lì e dire dobbiamo conoscerci di più, fare questo dialogo e poi magari fare quella domanda che mai si fa a un figlio, mai. Ed è: ma tu sei felice? Che è una domanda bellissima, è il titolo anche di un bel libro che abbiamo presentato qui qualche mese fa, Ma tu sei felice, di Federico Bacomo, che ora diventa anche spettacolo teatrale, grazie in parte anche al lockdown, perché sono state fatte lì di fatto le prove generali con questi dialoghi, e i protagonisti sono Claudio Biso e Gigio Alberti, due amici in scena, a cui diamo il benvenuto. Ciao Claudio, ciao Gigio. Ciao Claudio, ciao Gigio. È impegnativissima questa domanda, ma tu sei felice, vero? Una domanda che vi spaventa, Claudio. Ci mettiamo un'ora e 40 a rispondere e non sappiamo rispondere. Anzi, la risposta più sintetica, Gigio, prova a dire cosa dice il tuo personaggio alla domanda ma tu sei felice? Dipende da cosa intendi per felice. Se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé, di quello che fa ed è felice, allora no, non sono felice. Ma se per felice intendi uno che è soddisfatto di sé, di quello che fa, anche se non è proprio felice, allora sì, voglio dire che sono felice. Questo è Bacomo, è la prosa di Bacomo, hai capito? Bacomo, che diciamolo, è uno dei migliori dialoghisti italiani in circolazione, già da questo dialogo ne abbiamo avuto prova. È interessante questa cosa che si può rispondere alla domanda sono felice quasi solo per negazione, no? Bravo. Ma la cosa più bella di questo spettacolo, tra l'altro avete debuttato ieri, ragazzi, proprio nella mia città, Verona, nella meravigliosa cornice del Teatro Romano, Saverio e Vincenzo siamo anche un po' noi, no? Questi due protagonisti, perché sono agghiaccianti, soprattutto quando parlano di figli o di compagne. Ma dietro questa maschera del cinismo, forse vi chiedo, avete ritrovato anche qualche atteggiamento vostro come padri o come compagni? Insomma, loro sono ben lontani da noi, sono due evasori fiscali, traditori delle mogli, trattano i figli, cioè il mio personaggio ha il figlio che ha un difetto di pronuncia, per cui dice più stai zitto meglio è, insomma, ecco. Io anche un figlio non gliel'ho mai detto una frase così, però mi diverte dirla sul palco, la gente ci sta, ride, qualcuno vedo che condivide anche l'atteggiamento, anche quelli negativi dei personaggi nostri. Ma Gigio, sono due amici, no? Sono veri amici questi che dialogano, o l'amicizia è un alibi per potersi dire cose? Si dicono tutto, quindi sembrano usciti dal lockdown un secondo prima, perché parlano incessantemente per un'ora e mezza come se avessero da comunicare qualcosa che gli è stato impedito di comunicare fino a quel momento. In realtà da dire hanno pochissimo, hanno atteggiamenti che non sono, diciamo, correttissimi, ma purtroppo tutti quanti ce li abbiamo in qualche momento, atteggiamenti che non sono correttissimi. Loro sono un concentrato di questa cosa qua. Claudio, ma poi una piccola grande verità a un certo punto, no? Non ricordo se Saverio o Vincenzo, ma la dicono, no? Quando parlano di figli dicendo che noi siamo abituati a trattare i figli come uno quando ha una Ferrari, no? Che sgasi, ma alla fine si esaurisce quasi tutto lì, e fanno il paragone invece con i genitori statunitensi che progettano costantemente tutta la vita dei figli. Come padre, ti chiedo, tu verso quale estremo più ti poni? Cioè, sei un padre che progetta, che si preoccupa, o sei un padre che lascia libertà? No, io forse sbagliando, ma lascio libertà ho due figli, hanno preso l'educazione, penso sia stata la stessa da parte mia e di mia moglie, ma hanno preso strade diversissime. Uno, la creatività e graphic design, quel mondo lì dell'arte visual, l'altra più studiosa, scienze politiche, internazionali, in inglese, studia ad Amsterdam. Insomma, sono veramente diversi, e forse grazie al fatto che gli abbiamo lasciato tanta libertà, all'incontrario degli americani e degli anglosassoni, come dici tu, non abbiamo previsto, io dico per fortuna, un futuro per loro. Gigia, questo spettacolo è nato durante il lockdown con dialoghi che avete fatto da casa, di fatto adesso però siete in scena, c'è il pubblico vero davanti, avete fatto già diverse anteprime, ieri sera il debutto, com'è stato ritrovare il pubblico? No, da quel punto di vista lì è fantastico, perché comunque un po' di incubo rispetto al nostro lavoro col lockdown c'è stato, cioè avevi davanti una prospettiva veramente nera, invece ritrovare il rapporto diretto proprio col pubblico è un sollievo, credo, per noi e anche per loro, perché il web funziona, è una risorsa che uno può sfruttare, ma la possibilità di avere un incontro diretto con la gente è completamente diversa, cioè una soddisfazione molto più grossa, insomma. Vogliamo entrambi fare i complimenti a tutti gli organizzatori, perché hai ragione tu, ieri abbiamo fatto il debutto nazionale al Teatro Romano di Verona, però avevamo già fatto qualche anteprima nei giorni precedenti, anche importanti, a Mantova, Piacenza. Devo dire che la creatività italiana all'interno del rispetto delle regole, peraltro, è stata eccezionale. Ogni volta si sono inventati, a Mantova l'hanno chiamato bike-in, sì, come fosse il drive-in, cioè la gente, no, era un campo canoa, si chiamava, di fronte dove c'è il lago lì del Mincio, del fiume, e con la vista sulla città bellissima, e la gente arrivava in bicicletta, come fosse drive-in, capito? Però in bicicletta, ognuno aveva il proprio box dove metteva la bicicletta sulla rastrelliera, e c'erano posti uno o due, perché i congiunti, sai, che possono stare vicini, gli altri no, vabbè, altri hanno, a Piacenza c'erano, come classico, da classico, una sedia piena due volte, una piena due volte. A Bellano, sul lago di Como, invece, hanno fatto col metro, preso le misure. No, guarda, una sì, creatività, no, nel rispetto delle regole. Poi all'aperto, per fortuna, si può stare senza mascherino, quindi è stato molto bello, devo dire. Ma tu sei felice? Uno spettacolo, è un libro che parlano di noi in quanto maschi, di noi in quanto padri, di noi in quanto persone. Quindi ve lo consigliamo davvero, 23-24 a Forlì, il 25 a Pesaro, poi Fermo, Rovigo, Este, eccetera. Senatico, La Spezia, Cattolica, insomma un ricchissimo programma. Grazie davvero a Gigio Alberti, a Claudio Biso per essere stati qua con noi, e buona tournée. Ma tu sei felice? Un sacco, è certo che sì. Buona domenica, grazie. Grazie, buona ciao, domenica. Ciao. Ciao ragazzi, grazie. Ci fermiamo, il meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni. Padri Eterni. Domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, eccoci qua con i Padri Eterni, radio24.it, il nostro sito. Sto ancora pensando a questo strano binomio, no, che abbiamo fatto con le nostre interviste, questa richiesta che è stata fatta dallo psicologo di prendersi un momento ogni settimana per parlare con i propri figli. Che complicatissima questa cosa. Ma poi sembra un consiglio apparentemente banale, ma forse alle volte anche le banalità vanno ripetute, perché a forza di considerarle tali smettiamo di dirle e di pensarci. Santo cielo, dialogare con i propri figli, prendersi un'ora di tempo ogni tanto. E la domanda perché, la risposta è quella, perché dobbiamo conoscersi, no? Sembra proprio giocare a carte scoperte. E poi questa voglia di felicità, questo chiedersi: ma tu sei felice? Insomma, anche questo è Padre Eterno, e Padre Eterni sono soprattutto storie e testimonianze come quella che stiamo per ascoltare tra tra pochissimo di un figlio che sceglie di fare una cosa grande, una cosa complicata, una cosa che lo riporti immediatamente nel respiro di quel padre che non c'è più. Questa impresa è la traversata dello stretto di Messina, e fatto proprio sulla spinta del ricordo del padre. Lui si chiama Luigi Salvati, un giornalista di Avellino. Abbiamo letto questa bellissima testimonianza sul sito orticalab.it. Diamo il benvenuto a Luigi. Ciao Luigi, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi. Lunedì scorso hai attraversato lo stretto di Messina, 65 minuti di bracciate, sì, seguendo queste correnti, ma non era l'impresa sportiva quella che ti interessava, vero? No, non era assolutamente l'impresa sportiva, certo, ci tenevo tantissimo ad arrivare sulla costa calabrese, ma quello è stato un omaggio a mio papà che non c'è più, e come sto dicendo a tutti, fino alla noia è stato un inno alla vita. Ma infatti Luigi è stato, sembra quasi, no? il nuoto è stato anche una scelta quasi per prendersi una rivincita contro sì, la malattia, no, di tuo padre, legata al fumo, insomma, un terribile tumore. Purtroppo papà è un accanito fumatore e ha pagato a caro prezzo il pacchetto di almeno il pacchetto di sigarette al giorno. E quindi ho pensato che i polmoni che ognuno di noi ha sono belli per respirare, non per accumulare fumo, e da qui che è nata la mia voglia di fare qualcosa per i miei polmoni e per mandare poi un messaggio a tutti gli altri, che i polmoni servono per respirare, ci servono per nuotare e ci servono per vivere. Quindi questo è stato poi il significato di questa piccola follia. Ecco, il dolore, credo, anche per la morte di papà, no? Tu hai cercato, sì, anche di placarlo, tuffandoti in piscina, però non con l'idea della traversata, no? Cosa è successo poi? No, assolutamente no, la traversata è qualcosa che è arrivata molto dopo. Io avevo accumulato tanto dolore, sono stati mesi terribili, mesi fatti di viaggi all'ospedale di Avellino, viaggi a una clinica privata di Acerra per le radioterapie, i dolori post chemioterapia, vedere papà che comunque si stava spegnendo giorno dopo giorno, ma che nonostante il dolore che provava cercava sempre di regalarci un sorriso. Poi lui è sempre stato un punto di riferimento per noi, per me, per mia sorella, per mamma e per tanti amici che ha lasciato. Quindi avevo accumulato talmente tanto dolore, tanta rabbia per questa cosa che non si accetta, che ho deciso di prendermi un po' di tempo per me, per diciamo esorcizzare questa morte, per cercare di dargli una ragione. Quindi quell'ora in piscina, legato poi appunto alla respirazione, mi ha nel tempo un po' riconciliato con il mondo. Chiaramente la morte non si accetta, però adesso ci convivo con una consapevolezza diversa, e penso a papà con il sorriso. E giorno dopo giorno cerco di rimuovere quei brutti giorni e il suo volto sofferente, e ricordo solo le cose belle. Il papà duro, il papà che ti dà i consigli, quello che quando tu sbagli dici te l'avevo detto, però poi ovviamente ogni figlio fa di testa sua, salvo poi dire avessi fatto come diceva papà. Luigi, senti, questa sì, traversata è stata forse anche un viaggio in te stesso, no? Un ripercorrere un po' la tua vita, compreso l'ultimo terribile e delicatissimo periodo della malattia di tuo padre. Quando eri in acqua, in mezzo ai flutti, in mezzo al mare, durante quella traversata, hai mai avuto l'impressione che in acqua insieme con te ci fosse anche lui? Sì, io è chiaro, magari sembra che adesso rispondo così proprio perché stiamo parlando di questa storia, però è andato proprio così, perché all'inizio io ho arrancato molto, perché la mia era tutta una preparazione di piscina. Io non avevo mai nuotato in mare, anche perché sia perché ad Avellino e provincia non c'è mare, dovrei andare sulla costa salernitana. Poi c'è stato il lockdown, quindi è stato tutto un po' più complicato. Quindi la mia vera prova è stata lunedì scorso in mare, e alle prime bracciate, ai primi minuti io ho arrancato molto, perché facevo fatica a trovare il ritmo. Ad un certo punto, grazie anche al barcaiolo che mi ha detto devi nuotare con la testa giù, ho cominciato a nuotare come si nuotava in piscina, E per me quello è stato il momento in cui papà mi ha dato mi ha buttato con la testa sotto e poi mi ha accompagnato. Ma il tragitto poi da quando sono riuscito a nuotare come in piscina fino alla fine, con questo fondale blu, con i raggi del sole riflessi dentro l'acqua, con la barchetta al lato che mi accompagnava e che mi dirigeva, insomma è stato... è vero, è come se papà fosse lì con me, questo è evidente. E quindi me la sono goduta tutta quell'ora. E il fatto che non accusassi mai la stanchezza, mai la fatica, mi ha fatto stare ancora più bene. Orticalab.it, vi ripeto, è il sito dove potete leggere anche il reportage di questi 65 minuti di questa attraversata, no? Per fare pace anche con se stessi, con la morte, col dolore degli ultimi mesi, insomma arrivare a raggiungere l'altra sponda per ripartire, no? Era un po' quella, sì, anche esatto. Credo la tua idea. Complimenti davvero, Luigi, grazie per aver condiviso con noi questa storia, che è una storia bella, che è una storia che ci insegna tanto, no? Che poi ognuno il dolore è una cosa personale, è una cosa soggettiva, ognuno trova le strade per trasformarlo in altro. Ciao Luigi, buona domenica ancora. Grazie a voi, grazie, buona domenica, arrivederci. Noi ci fermiamo, è il momento delle informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con i Padri Eterni. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Padri Eterni. Ci sono i coccodrilli, dice mamma, mentre beve tè e limone, e stai lontano, ti prego, stai lontano dalle correnti forti, che non ti so più trovare. Nel mio mare ci sta la merda del mondo, dice lui, con cui ho diviso tanto, e dice sabato, la storia ce l'abbiamo in pugno, dai salta, dentro questo tempo, casca il mondo e tu vuoi ballare, e allora ballo con te, senza senso, senza rumore. Nel mare ci sono i coccodrilli, storia vera di Enayatollah Akbari. Sono passati 10 anni dalla pubblicazione di questo libro, scritto da Fabio Geda, un grande classico ormai della letteratura per ragazzi contemporanei. E non solo, super bestseller, tradotto in non so quanti paesi, una storia meravigliosa e potente, davvero. Una storia fatta anche intanto di un incontro, che sono appunto i due protagonisti del libro, ma anche di tantissimi incontri che in questi anni si sono fatti nelle scuole soprattutto, perché questa storia è entrata nel cuore delle ragazze e dei ragazzi, si sono riconosciuti in questa attualità, si sono riconosciuti in questo viaggio della speranza, che è il viaggio di una persona, ma è il viaggio di tantissimi, no? Di tantissime persone di cui magari non conosciamo il nome, di cui non conosciamo la faccia, ma sappiamo che sono storie che, ahimè, segnano la nostra attualità, la nostra era. Dopo 10 anni Fabio Geda e Enayatollah Akbari hanno deciso di scrivere un altro libro insieme per raccontare tutto ciò che non era stato raccontato di questa storia, in parte il prima ma soprattutto il dopo, perché Enayat dopo 4 anni di silenzio si è fatto delle domande: la mia mamma dov'è, mio fratello, mia sorella, come fare a rimettersi in contatto con loro. E da lì è nato il secondo libro, Storia di un figlio, Andata e ritorno, edito da Baldini e Castoglio. Diamo il benvenuto a Fabio Geda e a Enayatollah Akbari qua con noi oggi ai Padri Eterni. Ciao Fabio, ciao Enayat. Ciao ragazzi. Storia di un figlio, in un programma che parla di padri non ci poteva essere titolo migliore. Enayat, da dove è nata la voglia di raccontare questo altro pezzo di storia? Diciamo nato dalla un po' di informazione, un po' la consapevolezza, un po' riflessione sull'opportunità, no? Io sono qua ormai da anni e osservo due mondi diversi, quello del mondo dall'Afghanistan, dalla mia etnia e la solita persecuzione, poi dall'altra parte quello del mondo occidentale, purtroppo che è, diciamo, non tutto quello che succede dall'altra parte del mondo qua non viene mai raccontato. E quindi il libro è, Fabio, per me è un ottimo mezzo con cui posso di nuovo raccontare a un pubblico che è, in qualche modo, anche prima dicevi che siamo andati con tanti incontri, no? E anche questo, un po' anche il pubblico, un po' le persone dove sono andate, sono legate a loro e forse anche un po' la curiosità per loro cos'è successo dopo. Che io sono qua, la mia famiglia è stata là quando mia mamma è ritornata. Raccontare anche un altro pezzo dalla difficoltà del popolo afghano, che racconta attraverso la mia storia, ma è la storia di tantissimi. E quindi c'era ancora bisogno di fare parlare di queste storie. Certo. Ecco. Ma guarda, Fabio, mi piace molto, no, l'espressione che ha usato Nayat, no, quando ha detto Fabio è un ottimo mezzo per raccontare questa storia, lo scrittore come strumento per far arrivare le storie. Ti chiedo, in un periodo come questo, no, lo diceva Federico in apertura, in cui a volte registriamo una certa difficoltà col diverso, con lo straniero, con l'altro da noi, no? In cui chi si sposta, chi migra, viene spesso ridotto o dipinto come un problema, una minaccia. Credi che la soluzione possa essere proprio raccontare le storie, cioè mostrare attraverso le narrazioni, le testimonianze, soprattutto ai ragazzi, ai nostri figli, che ciascuna di queste persone ha una storia, dei sogni, un percorso spesso doloroso come quello di Enayat? Ma allora, guarda Matteo, anzitutto condivido con te il piacere di essere trattato come uno strumento, nel senso che è davvero quello che io ho sempre cercato di fare con Enayatollah, cioè lui ha una capacità straordinaria a voce, di persona, di comunicarti la gioia, la sofferenza, la complessità della sua vita, della vita della sua famiglia. Per scritto non riusciva a farlo e io semplicemente mi sono offerto come mano, no? come traduttore dall'orale allo scritto di questa storia. Quindi sono felicissimo davvero di aver fatto questo, insomma, e di essere visto da lui in questo modo, e lui lo sa e sono contento che lo dica. E per quanto riguarda il valore che do io al racconto di storie come questa, cosa posso dirti, Matteo? Che purtroppo non credo che esista niente che, come una bacchetta magica, no? Come se fossimo in un mondo fatato, e può davvero stravolgere e far cambiare direzione al mondo in maniera così veloce ed estemporanea. Io credo che le narrazioni siano utili, non bastano le storie, ma credo che le storie siano il modo migliore che noi abbiamo per entrare nella complessità del mondo. Soprattutto dico le storie complesse, quindi la letteratura e quindi il cinema, i documentari. Certo. Io credo che, ecco, la complessità di storie che ci fanno stare dentro a vite come la sua, se noi non, poi noi abbiamo abbastanza spazio per far entrare quelle vite nella nostra, ecco, qualcosa in noi può cambiare. E come diceva Gandhi, il cambiamento del mondo parte dal cambiamento di ciascuno di noi. Fabio, ma Enayat che figlio è? Che figlio è stato? Lo chiedi a me? Sì, lo chiedo a te, sì, poi lo chiedo anche a lui, ma prima volevo chiederlo a te. Ok, ma guarda, allora, secondo me è stato un figlio straordinario. Io una cosa, guarda, vi racconto questo. E a me una delle cose che più mi commuove della storia di Ayatollah e che noi svegliamo anche in questo libro, nel libro precedente non c'era stato il tempo di raccontarlo, è che lui, pensate, non ha mai raccontato esattamente a sua madre quanto è stato difficile il suo viaggio. Perché nel momento in cui lui ha cominciato, dopo 8 anni che non si sentivano, dopo 4 anni che lui era arrivato in Italia, quando ha finalmente ritrovato per telefono sua mamma, e sua mamma magari così un po' timidamente gli ha chiesto ma com'è andata, cioè cosa è successo in questi anni, lui ha sorvolato sopra alla fatica, al dolore, alla sofferenza, perché si è detto che senso ha che io vada a dire a mia madre quanto ho sofferto in questi anni, l'unica cosa che ottengo è farla soffrire, no? E farla soffrire per quello che ho sofferto io, ma ormai ciò che ho sofferto io è finito, è passato, io ho conquistato una nuova vita e quindi le racconto solo le cose migliori. No, le racconto solo il presente e mi concentro su di quello. Ecco, lui è quel tipo di figlio lì. Ma c'è anche un tipo di padre nel libro, no? In Ayat, nel libro c'è questo padre che va a cercare la tua famiglia e ti fa telefonare da tua madre, Hassan. Ed è una figura molto bella perché fa capire ai lettori che non si è padri solo avendo dei figli, ma lo si è in un certo senso ancora di più prendendosi cura delle persone. Ed è un concetto che qui da noi in Occidente forse magari un pochino sfugge. Invece, leggendo il vostro bellissimo libro, arriva con grande chiarezza. È così? Esattamente così. Io non, anche in antropologia dice non è solo il padre colui che ti mette al mondo, ma anche quello che ha il cuore di te, anche quello può essere il tuo padre, no? Certo. In questo modo, in questo caso, anche se lui non mi ha visto, è stato un figura, come dire, quasi ha fatto più di un padre, no? Che non è il suo dovere, ma si è prestato fino in fondo, ha rischiato la vita, ha perso il suo tempo ad andare a cercare la mia famiglia. E io dico anche come sono stato, diciamo in una risposta, dico anche come sono stato il figlio, come il padre o i genitori che percepisco. E secondo me io ringrazio la mia educazione, che mia madre mi ha trasmesso un po' di cose che non si può mai dimenticare, è quello che mi ha istruito, essere un attento, no? E questa attenzione mi ha portato a cercare figure genitoriali un po' ovunque, nei libri, nella musica, ho imparato un po' di tutto anche grazie a questa attenzione che mi ha insegnato, perciò non c'è una solo figura genitoriale, certo. Quelle che ti mette al mondo, certo. Ma può essere anche un libro, una figura genitoriale, ma anche la musica, anche la poesia, sì. E tutto questo io ho cercato nei libri, nei racconti, che mi ha istruito poi. Grazie vero a Fabio Geda, grazie a Ayatollah Akbari, storia di un figlio andata e ritorno, Baldini e Castoldi. Ciao, buona domenica! Ciao a voi ragazzi. Grazie ragazzi. Un abbraccio, buona domenica. È il momento dei saluti, un grazie a tutta la squadra, Peter Bescapè, Danilo Ditrani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it è il nostro sito. Ciao Matteo, buona settimana. Ciao Fede, buona settimana anche a te. L'appuntamento come sempre domenica prossima alle 11. Ciao. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.